Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno in questo inizio del fine settimana in cui, come al solito, i compari di Conti della Belva si rivolgono a tutti voi, a chi ama, a chi non ama, a chi finge di amare, a chi tradisce, a chi non è fedele, a chi non lo è mai stato, a chi ha raccolto metà del bene che aveva dato e a chi ama indiscriminatamente. E a tutti ci rivolgiamo, perché in questo sabato e domenica iniziate a pensare insieme a noi ad alcuni dei paradossi dei tempi in cui viviamo. E oltre ai miei saluti e ringraziamenti per l'ascolto in diretta o in podcast, qui in studio Carlo Alberto Carnevale Maffè, è collegato con noi, c'è anche Mario Seminerio, buongiorno a tutti, e Renato Cifarelli ci raggiungerà come sempre, perché è lei che accumula il suo, nel suo deposito di paperone, oggi è lì che sta facendo qualche tuffo dall'alta montagna verso i bitcoin che ha accumulato. Ecco, no, sto scherzando, ma insomma, di che cosa parliamo oggi? Per chiamarci all'800240024, i temi in brevissimo sono questi. Cominciamo come al solito con la nostra consueta rubrica in cui Mario Seminerio fa il punto per voi di ciò che è avvenuto di più rilevante nella settimana. C'è qualche dato Istat, qualche coda della commissione delle banche, e c'è qualche riflessione da fare anche su quello che succede sul quadro internazionale, a dire la verità. E però poi abbiamo un blocco nel quale ci poniamo il tema dei temi dal punto di vista di ciò che ha dominato nella settimana, cioè il Bitcoin, caro Carlo Alberto. Sì. Questa bella nuova, come possiamo chiamarla? Moneta? Non è una moneta. Non questo, è una asset, moneta. Che cos'è? Questo un grande atto di. È un sarchiappone. Perché è un asset. Qui finisce a litigare, caro Mario. È un asset, non lo so, perché genera flussi di reddito stimabili. No, non è neanche un asset. Che cos'è? In parte sulle transazioni. Ne parliamo. Vedremo che cos'è. Vedremo se dovete starne alla larga, a meno che non abbiate chiaro che cosa sia. E quali potranno essere gli esiti. Comunque, ragazzi, in settimana l'autorità che regola il trade finanziario negli Stati Uniti le ha messi ufficialmente alle quotazioni dei futures, quindi almeno dal loro punto di vista dovrebbe essere chiaro che cosa è e che cosa non è. Noi vedremo di approfondirlo con un ospite di cui ci fidiamo, Ferdinando Metrano. Dopodiché, dopo la pausa generale radio, una breve in parte la trasmissione dedicata al seguente tema, quindi se volete telefonateci, oltre che per chiedere o dirci cosa pensate del Bitcoin, su questo scandalo del TFR differito di anni e anni e anni, e di cosa le banche vi propongono anticipandone il pagamento che lo Stato non vi dà. Allora vi spiegheremo le basi di queste circolari dell'INPS, a mio giudizio in un paese civile abbastanza intollerabili, ma resta il fatto che invece va così. Se volete chiamateci anche su questo. Noi abbiamo direttamente un ascoltatore che ci ha confermato la storia, che sarà il nostro testimone, con il nostro Alessio Argiola stenteremo di capire se davvero bisogna accettare questa ulteriore iniquità riservataci dallo Stato. Dopodiché approfittiamo della storia del calendario, sono 70 anni della nascita di Israele, per fare un duplice punto con Maurizio Molinari, direttore della Stampa, punto geopolitico, perché l'Europa si è lavata le mani del Medio Oriente oggi, sembra che non gli interessi nulla, e Putin il cartaro, e noi, quali sono i nostri rapporti, perché ce ne freghiamo così poco di quello che sta avvenendo tra Teheran, Arabia Saudita e Israele in quello scenario, con sullo sfondo Egitto e Turchia di Erdogan. E poi soprattutto, perché sulla cyber security, come in genere su tutta la tecnologia avanzata, Israele è diventato altro che veramente la terra promessa del mondo, e il posto nel quale, se sei in quel settore o se hai bisogno di prodotti avanzati di questo, non puoi non essere, non andare, non fare affari con loro. Ecco, ci porremo questo problema, e quindi anche se avete qualche curiosità, interesse, opinioni da dare sui nostri rapporti con Israele, questo è il momento giusto. No, non si accettano telefonate su Carrai e Renzi, però ho detto tutto questo. Allora, che altro aggiungere, Mario? Io aggiungerei che questa mattina, intorno alle 7:30 italiana, l'1:30 di Washington, il Senato degli Stati Uniti ha finalmente votato, dopo lunghe sofferenze, emendamenti scambi di favori, eccetera, la riforma fiscale, ovviamente la versione del Senato, dovrà essere riconciliata e fusa con quella della Camera, che in alcuni punti è molto differente, e poi andrà alla firma di Trump. Ora, questa riforma ha praticamente produce un buco di $1,000 miliardi in 10 anni, secondo le stime. Attenzione, secondo le stime dinamiche, il famoso dynamic scoring. Perché dico questa cosa un po' esoterica? Perché in molti dicevano, quando si tagliano le tasse, è sbagliato considerare staticamente la perdita di gettito, perché il taglio di tasse stimola l'attività e quindi tende a ridurre il buco. È la famosa storia dei tagli d'imposta che si autoripagano, e non è vero. Ma quello che io voglio dire è che la cosa più bizzarra di questa legge è che comunque col dynamic scoring hanno $1,000 miliardi di deficit aggiuntivo stimato in 10 anni. Un trilioncino. Esatto, che i tagli d'imposta per le persone fisiche verranno azzerati nel 2025, perché non ci sono soldi, anche così, quindi è una cosa un po' bizzarra, sono dei tagli d'imposta a termine. Beh, però quella è una clausola apprezzabile, un meccanismo automatico che preserva dall'andare avanti se una cosa nella sua attuazione sta generando un disastro, si dice stop, almeno quello. Ah certo, certo, però diciamo che secondo me incide anche sulle aspettative, sì, purtroppo, però lo vedremo. Sì, purtroppo. E però temo che questa sia una misura, a parte gli effetti distributivi a vantaggio dei più facoltosi, ma quelli li vedremo in corso d'opera perché esistono. Questa è una misura di panico creata dai repubblicani, perché sanno che alle elezioni di midterm, tra 11 mesi, c'è il rischio di avere una vera e propria strage, ammesso ovviamente che Trump ci arrivi intatto, visto quella che è l'indagine di Robert Mueller che si sta avvicinando alla Casa Bianca. Quindi la cosa più triste di tutta questa vicenda è che, adesso dirò una cosa che a molti di voi sembrerà partisan, è che i repubblicani scassano i conti. Dopodiché arrivano i democratici, sono costretti ad alzare le tasse per risanarli e si prendono il biasimo dei gabellieri. E questo mi pare che sia una cosa che tende a ricorrere nella storia americana degli ultimi 30 anni. Scusate la polemica, io ovviamente non ho nessuna tessera di partito, avevo simpatie repubblicane negli Stati Uniti per i repubblicani classici, diciamo quelli realisti in politica estera e moderatamente conservatori fiscali. Questi ultimi repubblicani che vedo da Reagan in avanti mi creano qualche problema, ma è un problema mio ovviamente. No, diciamo che è una razza che però è estinta, perché non è stata in grado di esercitare il giusto controllo di quello che avveniva nel grande partito, e di elezione in elezione poi è arretrata. La tragedia è che ha perso politicamente, figurati. Dovremmo una volta fare la trasmissione su che cosa sono diventati davvero i repubblicani. Ah, certo. Negli Stati Uniti, che questo sarebbe molto interessante, perché io sì, penso che sia completamente sbagliato dare definizioni generali, generiche, sono cose molto diverse al loro interno. Io invece voglio parlare di come stanno diventando gli italiani in Italia, se posso, e se vale la ricerca del Censis, che è bellissima, l'ho presentata ieri, è veramente un fiume di elementi interessanti. Per esempio, caro Oscar, risulta che agli italiani, al primo posto dei pensieri, oltre al posto fisso che come sappiamo invece non c'è più, perché ormai solo il 90% dei posti creati nell'ultimo anno sono in realtà posti a tempo determinato, ma passi questo termine. No, ma però il pensiero fisso non è i social network vincono addirittura sulla casa di proprietà di 2 punti, 28% contro il 26. Questa è una cosa interessante, fammi dire anche un po' di autocritica rispetto al qual è lo strumento per migliore risultato sociale, cioè qual è il mezzo per riuscire socialmente. Ovviamente vince la cura del corpo col 22%, i selfie al 19% e penso un po' il titolo di studio al 14%. Ecco, questo è lo specchio di un'Italia che si specchia, non so come dire, che crede in Narciso, cioè, palestra e selfie prima dello studio. Quindi tu che mi accusi di dire, ma com'è che fai le indagini sui sistemi di influencer, cosa devo fare? Prendo atto della realtà delle cose. Gli italiani ci stanno dicendo che i social media sono più più importanti del, dello studio universitario. Capisci che l'Italia devo aprire un social paradosso, media. Del paradosso permanente. Cioè, abbiamo detto agli italiani che hanno sbagliato per decenni a credere che il mattone venisse prima di tutto. E vabbè, però non è che i social vengono prima del mattone. No, ecco, esatto, non vorremmo esagerare su questo. Però capisci che specchio del paese che salta fuori? Con i social media Mi sembra uno specchio paradossale. Io non vorrei che Censis, preso dal dover dare una spruzzata, devo dire, di ammodernamento alle sue un po' vecchie letture, se posso dire, molte volte. Abbastanza. Ecco, bravo, perché qui siamo in minoranza, perché c'è invece Carlo Alberto, eccetera. Non vorrei che insomma si dovesse per questo considerare come una grande tendenza del prete che violenta i minorenni usando l'oro santo, tanto per usare un'altra di quelle notizie che ieri mi ha lasciato abbastanza senza parole. Ecco, cioè, se i selfie vengono prima dello studio, c'è qualcosa che non funziona. Ma io non sono convinto. Davvero gli italiani, secondo te, direbbero che gli selfie vengono prima dello studio? Dai, su, non esageriamo. Cioè, se no ci mettiamo a fare esagerazioni giornalistiche, così diventa tutto una... Come ha detto ieri in una trasmissione che io vi invito a risentire in podcast, perché il grande Filippo D'Averio ieri mi ha regalato un'ora di grandi detti. Finiamo a un paese che di sé dà come miglior rappresentazione la parodia, e le classi dirigenti anche delle informazioni ci intincono il bigotto, quelle della sociologia idem, gli economisti idem. Cioè, siamo in questa perenne parodia di noi stessi, e la classe politica diventa poi a quel punto l'interprete della parodia. E però poi la parodia è un genere minore della commedia, non è che si va molto avanti con la parodia. Adesso non so come la pensate voi, Mario Carlo Alberto, ma io spero che questo che hai appena detto non sia davvero ciò che pensano gli italiani. Beh, una speranziella. Bene, torniamo tra poco. Conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Allora, abbiamo l'Istat con il PIL, abbiamo i dati del lavoro di ottobre. Mario, da cosa cominciamo? Ma sul PIL direi che è un dato sicuramente positivo, anche se è uscito la stima finale è uscita un decimale di punto in meno della stima preliminare, quindi 0,4 trimestrale e 1,7 annuale. Però io, come ho commentato ieri, probabilmente suscitando sconcerto in chi è convinto che io debba sempre fare... Ma secondo me sono chi non ti conosce. Invece hai fatto benissimo perché a dare queste due riflessioni. Ascoltate. No, il dato è positivo perché, allora, andando per ordine ma senza annoiarvi troppo, la domanda finale interna, quindi solo le componenti domestiche, escludendo la variazione delle scorte e il commercio estero netto, ha fatto più 0,7 contro più 0,1 del primo trimestre e più 0,4 del secondo trimestre. Ed è la cosa di cui abbiamo bisogno. Esatto, la composizione migliora, vogliamo dire questo. Esatto. Del PIL si sta stabilizzando su fattori che sono più sostenibili, più equilibrati. Certo, ed è questo è un dato che, diciamo, tacere sarebbe indice di malafede. Poi un altro dato molto interessante, gli investimenti. Noi abbiamo fatto 0,4 nel trimestre e di questo 0,4, 1,05 è fatto dagli investimenti. Investimenti che a loro volta derivano dalla continuazione del grande momentum dell'industria 4.0, che è un momento di grande discontinuità tecnologica e di rigenerazione produttiva, quindi non dovrebbe essere effimero, ammesso che si continuerà ad incentivare questo tipo di investimenti. Però attenzione, le aziende spendono, poi, come abbiamo detto più e più volte, cosa se ne faranno di questi impianti e soprattutto se avranno le competenze e il personale per saperli gestire opportunamente è un'altra parte del film. Cioè, per ora noi siamo all'esborso, che chiaramente influisce positivamente sul PIL. Sulla sinergia e sul circolo virtuoso che questo tipo di investimenti potranno innescare, solo il tempo dirà. E poi altro elemento positivo, l'investimento in mezzi di trasporto. Questo è da sempre, sono almeno 3 anni che l'investimento in mezzi di trasporto contribuisce alla crescita italiana. Chiaramente, come abbiamo detto più e più volte, questo deriva dal fatto che noi abbiamo gli impianti di Fiat Chrysler in Italia che sono a leva sulla congiuntura mondiale, perché producono ovviamente non solo per la sfittica domanda interna, ma anche per l'export. Quindi in un momento di forza della domanda globale e soprattutto della domanda europea, è chiaro che noi andiamo a leva e questo diventa un momento virtuoso. Quando la congiuntura si invertirà avremo più problemi, però adesso noi citiamo qui e ora. E poi altro dato positivo, la variazione del PIL nominale anno su anno è stata del 2,4%. Questo è il dato più forte da innumerevoli trimestri a questa parte, no? Venivamo da un più 1,2 nominale nel primo trimestre, più 1,7 nel secondo trimestre. Ecco, ma ricordiamo, abbiamo, Mario, perché il nominale conta con un debito pubblico che abbiamo. Esatto, raffrontandolo con il costo medio del debito si può capire se l'andamento del rapporto debito-PIL è destinato a calare o meno. E se riusciremo finalmente in maniera virtuosa a liberarci di questo avanzo primario, che ricordiamolo, sono 20 anni che sottrae risorse all'economia nazionale. Malgrado qualche furbo, qualche fesso dica che noi dobbiamo avere benefici perché sono 20 anni che abbiamo avanzo primario, e non funziona così. Abbiamo avanzo primario perché abbiamo una qualità della spesa pubblica che è pessima. Allora, qual è la mia preoccupazione? Che se finalmente noi vedremo il rapporto debito-PIL calare in maniera virtuosa, perché la crescita del PIL nominale eccede il costo medio del debito, anziché usare questo che sarà l'unico vero autentico tesoretto, per usare questa odiosa parola, per ridurre progressivamente le tasse veramente, non come sta venendo fatto in questi anni, che comunque ha un'ipoteca sul futuro, e noi però saremo assaltati da postulanti che chiederanno la mancia, che chiederanno di disperdere in mille rivoli questo beneficio, e dopodiché noi sprecheremo un'opportunità epocale. Poi, se posso dire l'ultima, noi diciamo, perché in questo momento stiamo andando bene? Stiamo facendo la nostra parte all'interno di un PIL potenziale italiano che cresce meno che altrove, ma anche per motivi demografici, oltre che per produttività di sistema, perché se ci guardiamo intorno i dati di PIL degli altri paesi europei con i quali ci confrontiamo, il nostro patrio orgoglio si ridimensiona, e se guardiamo soprattutto l'andamento della manifattura, ieri la società Market ha pubblicato l'indice dei direttori acquisti di novembre, ed è un tripudio, cioè persino la Grecia che sta facendo i numeri, l'Italia sta facendo massimi pluriennali anche nella componente occupazione, il che è molto interessante, però cerchiamo di essere consapevoli che l'Italia in questo momento, con il suo ridotto potenziale, che è demografico, di produttività, eccetera, partecipa del movimento corale di crescita e di espansione della manifattura e dei servizi, e anche di un commercio estero che, malgrado tutte le minacce, sta andando bene. Quindi lasciatemelo dire, il dato è positivo, qui e ora. Dopodiché, se ci saranno nubi all'orizzonte, noi ve ne daremo conto. Mi spiace per quelli che pensano che la nostra funzione sia quella dei signori, no. No, vabbè, non ripetiamo troppo, ma non gli dare troppa importanza, come ognuno è libero di pensare quello che vuole, del resto poi noi ci teniamo i numeri. Sull'occupazione, ripeto, la conferma degli dati di ottobre è che a un anno 246.000 occupati in più, quindi c'è sicuramente una diminuzione del tasso di occupati aggiuntivi dovuto alla decontribuzione. Il dato di fatto è 90% tempo indeterminato, tanto per essere chiari, e conferma della tendenza di lungo periodo degli over 50. Quindi queste due cose sono le due cose poi strutturali insoddisfacenti, diciamolo pure, del bilancio dei 3 anni che abbiamo alle spalle, mentre il dato quantitativo è comunque abbastanza soddisfacente, tranne che bisogna sempre ricordare che naturalmente stiamo aggiungendo posti di lavoro perdendo produttività, e quindi questo non è esattamente la cosa che nel nostro paese... Sì, stiamo raschiando il fondo del barile delle competenze tecniche che ci verranno a mancare. Ha ragione Mario a dire stiamo sovrainvestendo in hardware, ma è come dire, la componente software, mentale e culturale invece non sta al passo di un paese, appunto, che vediamo che preferisce farsi i selfie invece che venire a studiare, è evidente che nel medio termine sì. O importiamo, questo sì, manodopera, o meglio ancora, intelligenza acculturata, cosa che è difficile fare in queste condizioni, oppure andiamo corti, questa è la verità, che la manifattura non ce la fa a reggere un ciclo lungo di espansione, perché mancano veramente le risorse tecniche necessarie. Esattamente, andremo corti. Per non andare corti, una delle riflessioni che la politica dovrà avviare, ora che siamo in campagna elettorale, poi bisogna vedere che governo nasce, e nasce un governo col punto interrogativo, comunque con la ragionevole certezza che ormai la Germania si è riassestata con ritorno alla grande coalizione, perché le parole dei socialdemocratici fanno chiaramente capire che si andrà a quello. Capisco tutte le ironie di molti, ma è meglio così per la Germania e per l'Europa, e questo significa quindi che si apre poi il capitolo delle cooperazioni rafforzate in Europa, si apre il capitolo della trasformazione dell'SM. Io spero che l'Italia abbia la capacità e la responsabilità di rimanere solidamente a quel tavolo fin dal primo momento, invece di farsi prendere da tentazioni anti-euro e anti-europee, che sono fortissime nell'opinione pubblica italiana e saranno forti anche nella campagna elettorale. Non mi illudo, questa settimana abbiamo proposto una strada insieme a Carlo Bastasin, che ha firmato questo paper per la LUISS, che io torno a richiamare la vostra attenzione, cari ascoltatori, perché vale la pena, è una proposta ragionevole che incardina una responsabilità italiana istituzionale, con una proposta che coinvolga anche le opposizioni nel prossimo Parlamento per un impegno chiaro di riduzione del debito pubblico, ma incardinata come responsabilità offerta nel tavolo europeo attraverso una scansione pluriennale di obiettivi, una parte dei quali venga realizzata anche attraverso il ricorso di quote di titoli italiani del debito pubblico, oggi in pancia alla BCE, dati in garanzia a quel punto all'SM, che trasformerà le sue finalità e la sua capacità strumentale di rendersi capace anche di estendere il proprio campo di intervento. Come vedete, è una cosa che non comporta solidarietà, cioè il fatto che paghino i tedeschi il nostro debito, ma potrebbe però assumere in garanzia quote rilevanti di quegli oltre 300 miliardi di titoli del debito pubblico italiano, in cambio del fatto che la garanzia, con la controgaranzia offerta dall'Italia, sarebbe la segregazione di quote proporzionali e crescenti nel tempo di beni, di patrimonio pubblico, a garanzia del fatto che quei titoli poi vadano a estinzione, vadano a ritiro, cioè ad abbattimento del debito pubblico. È solo un esempio, ma per dire che l'Italia può contemporaneamente costruire una nuova Europa realisticamente capace di fare passi avanti, non fuga in avanti, ma contemporaneamente ponendo il problema, cioè quello della riduzione del debito pubblico, che vale per noi che ce l'abbiamo al 132, ma vale anche per altre punte europee, che comunque è andata come media al 90% oggi, ma con punte anche superiori al 90%. Ecco, cose così servirebbero, chissà se arriveranno. A dirvi la verità, non sono molto ottimista. No, soprattutto se i dati del Censis, che Carlo Alberto qui continua a leggere esaltandosi. Ma no, mi stupisco, caro Oscar, però è esaltato dal Censis. Io aprirei una palestra che fa selfie a questo punto. Se devo guardare i dati di mercato, non leggo le tue notizia, robe da cari ascoltatrici, io, caro Alberto, apre una palestra per i selfie. Con i selfie, esattamente, con corsi per social media. Che devo fare? Cioè, se questo è il dato del mercato, me ne frego delle tue analisi politico-sindacale economiche, caro Oscar. Vedi, questo, perché la Bocconi ci ha portato al disastro? Ve ne stiamo dando una prova in diretta. Ma te pensa un po'. No, stiamo tutti scherzando. Smentisco questa cosa. Stiamo tutti scherzando, però no, assolutamente la Bocconi non ho niente a che vedere. Io con quello ricerca, però, capisci? Devo prendere atto che l'empiria viene prima dei tuoi pensieri, capisci? Ma l'empiria viene prima dei miei pensieri. Io mi rifiuto di credere che per gli italiani davvero tu i selfie siano considerati uno strumento di ascesa sociale, i selfie. Ma così. Mario, ma secondo te tu chi credi al fatto che gli italiani considerino davvero i selfie devi principale strumento con i numeri, non è che poi la tua sociale. Ideologia non mi interessa. Ma non è ideologia, io no. Sì, perché ma... sono numeri, cavolo. Ma non so chi ha fatto quelle indagini, fare... dai su. Posso fare una Mario, metodologica. Prego, caro. La metodologica è che io non leggo le fiabe del Censis. Oh, ops. Quindi mi pare che questa sia la mia risposta. Ops. Che sono scritte in un italiano molto bello, vabbè, molto ma creativo, magnifico, dai. Uno stile che a me piace molto, e dopodiché mi dovrete dire qual è l'utilità pratica delle ricerche del Censis. E no, è Carlo Alberto, vedi che modifica la priorità delle sue scelte. Io parlavo dei numeri e non della prosa. Dei numeri, Mario. Dei numeri, ma noi di quello parliamo però. I numeri io ti seguo, la verità è che i numeri sono difficili da smentire, perché ho evidenze convergenti di altri istituti di ricerca. Aia, ragazzi, qui selfie, l'ascesa sociale, basta scuola, basta università. Beh, risparmiamo un po' di soldi. Non ho detto che sono d'accordo, ho detto che devo prendere atto con stupore di questi numeri. Io non quindi voglio apro prendere, una palestra che fa selfie. Voglio prenderne atto. Questa è poi la differenza. Rifiuta, di chiudi gli occhi. Ma non chiudo gli occhi. Nega tutto. Affermo che il mio compito è quello di spiegare che non si può credere che farsi le fotografie sia uno strumento di ascesa sociale. Ma questo perché tu fai il giornalista, io faccio il ricercatore, ed è un mestiere diverso. Io prendo atto della realtà e non gli dico che deve cambiare perché io non sono d'accordo. Ma allora il grande filosofo che diceva che il vostro compito è cambiare il mondo, ma non fermarsi a descriverlo. Era un comunista. Ah, credevo che anche io faccio il liberale, no. Capisci? Ah, ecco. Vabbè. È finita, ragazzi. Questa è una dichiarazione diretta della distruzione dei presupposti della propria carriera di insegnante universitario. È così, ve l'abbiamo offerta in diretta gratis, torniamo tra poco. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con i compari dei conti della belva. Caro Alberto! E collegato. Mario. Eccoci qua. Andiamo al blockchain, subito. Allora, vi chiedo, cari compari, prima di presentare il nostro ospite, che ringrazio immediatamente, il nostro ospite Ferdinando Ametrano, che è proprio docente su Bitcoin e Blockchain Technology al Politecnico di Milano e a Milano Bicocca. Grazie di essere con noi, Ferdinando. Buongiorno, grazie a voi. Allora, prima divertiamoci a sentire le definizioni in pochi secondi che ciascuno dei nostri due compari dà alla seguente domanda. Che cosa è il Bitcoin a vostro giudizio? Inizia Carlo Alberto. È un grande motore di fiducia apolide, caro Oscar. È la vittoria definitiva di Newton contro Hegel. È il trionfo della matematica sul diritto. È la vittoria definitiva della tecnica sulla politica. Questo è non tanto il Bitcoin, ma come sai, quello che ci sta sotto, cioè la blockchain. E io sono felicissimo che tutti ne parliate, perché 10 anni fa, quando ne parlavamo noi nei nostri oscuri laboratori di ricerca, ci trattavate come degli zombie. Adesso siete costretti a prendere. Adesso vi trattiamo come dei pericoli pubblici. Bene, sono contento. Meglio essere odiati che ignorati. Allora, che vuoi che ti dica? Allora, chiaramente nel profluvio delle definizioni non hai detto con chiarezza che cos'è. Cioè, lo lascio diranando, dai. Ah, ecco, lo lascio diranando. Però ha svicolato la domanda il professore. È abilissimo da questo punto di vista. No, poi tiro fuori tutti va i dati bene. Della Bitcoin. Allora, invece, Mario, che cosa è il Bitcoin per te? Io non arriverò mai a questa prosa modello Censis di Carlo Alberto. Pensavo modello Fusaro, ma niente, comunque vabbè, oggi è andata bene così. No, mi ero preparato sul... Alla fine ti voglio bene. Sì, ecco. Senti che parli come Fusaro. No, che cos'è? Non lo so, o meglio, penso di saperlo, una valuta digitale che, come dire, è sottesa da una matrice di transazioni crittografate che è il blockchain. Ora, la parte della valuta sta determinando una follia speculativa che scoppierà facendo del male a molta gente. La parte del blockchain, in quanto tecnologia, probabilmente tenderà a persistere e a svilupparsi, però questa è, ripeto, non sono uno specialista, sono un passante, per cui sicuramente Ferdinando ci illuminerà di più, al netto della sua spinta evangelizzatrice, ovviamente. Ha detto la sua spinta evangelizzatrice. Allora, Ferdinando, vediamo un po' se facciamo passare l'esame a questi due studentieri che hanno dato queste risposte. Ferdinando. Ma diciamo che un 18 glielo diamo, però hanno perso il punto, perché Bitcoin è per la prima volta nella storia di una civilizzazione digitale la possibilità di avere un bene digitale trasferibile ma non duplicabile. Ora, se noi ci pensiamo, questa è una cosa assolutamente straordinaria, nulla in ambito digitale ci sembra non duplicabile e non clonabile. Bene, con Bitcoin è esattamente così, può essere speso una volta ma non doppio speso. Ma allora, se è scarso, se non è duplicabile, assomiglia moltissimo a quello che potrebbe essere l'equivalente digitale dell'oro. Già. Bitcoin, se è qualcosa, è oro digitale. E se noi teniamo conto di qual è stato il ruolo dell'oro fisico nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza, non possiamo che immaginarci l'effetto dirompente che potrebbe avere in una civilizzazione digitale l'emergere dell'oro digitale e nel futuro della moneta e della finanza. Però Nando, visto che vuoi fare lezioni, e ti apprezzo questo, devo aggiungere questo, dobbiamo dire che è rimasto piccato, è rimasto male, ma Guarda, io ti dico questo: il problema per cui Bitcoin non si capisce bene è perché Satoshi Nakamoto non ha mai fatto un selfie. Io sono sicuro che se facesse un selfie. Però vogliamo spiegare, voglio provocarti un po'. Ci sono tanti cultori del Bitcoin che dicono: ecco la dimostrazione della moneta. Il Bitcoin è la negazione del concetto di sovranità monetaria. È la definizione matematica non nasce solo con la sovranità monetaria. È la definizione matematica che è impossibile modificare la base monetaria perché è incorporata nel modello matematico che la definisce. In questo senso tu l'hai definita non duplicabile, che è il tema della blockchain. Io la definisco non aumentabile perché è incorporato nel modello matematico di Nakamoto. Quindi infatti Carlo Alberto, io ti ho promosso comunque, va bene, non ti lamentare del voto adesso come i tuoi peggiori studenti. Allora il punto reale è che io preferisco guardare a Bitcoin come una crypto commodity più che una criptomoneta. Aderisco, anche secondo me è una commodity. La politica monetaria, tra virgolette, del Bitcoin è progressiva scarsità estrattiva. Satoshi Nakamoto ha volutamente mimato la progressiva scarsità estrattiva dell'oro. Che poi l'oro possa essere usato come moneta, lo sappiamo, è successo nella storia. Ma soprattutto l'oro ha bootstrappato, ha innescato l'evoluzione di nuovi sistemi monetari, esatto, magari anche più avanzati di quelli passati. Esatto. Ma moneta è ciò che decide il popolo essere moneta, non è quello che dici tu, caro Nando, è neanche quello che decido io. Se il popolo decide che questa è moneta, è conchiglia o palline di nylon, quella è moneta, amico mio. E questa è la verità dei fatti, che abbiamo sottratto l'esistenza della moneta dal monopolio delle banche centrali. Il re non decide più la sua effigie sul retro della moneta. Questa è una cosa bellissima. Siamo assolutamente d'accordo, perché essendo la moneta fondamentalmente fiducia, una volta era fiducia nell'imperatore, nel re, in Giulio Cesare, in altri momenti storici è stata fiducia nelle garanzie di depositi di oro che potevano redimere una moneta, oggi c'è, tra virgolette, una moneta che è basata sulla matematica e sulla crittografia, che sono perlomeno altrettanto affidabili. Ed è la sconfitta dello Stato nazionale come monopolio della fiducia. Però, figuratevi se non sono d'accordo, però ecco, siamo in due a dire in questo momento però, io e Mario, perché siamo realisti, noi dobbiamo pensare anche che stiamo facendo in questo momento un servizio come informazione, non solo le nostre opinioni. Le nostre opinioni sono chiare, che ascoltatori avrete capito. Quindi ascoltatori stanno scatenando, con variazioni diverse. Qui ci sono degli entusiasti e un perplesso sin dall'inizio, che è Mario. E io devo richiamare al nostro compito. Caro Ferdinando, caro Carlo Alberto, non dico caro Mario perché so che Mario lo pensa e lo scrive già. Proprio la caratteristica di essere fuori dalla identificazione valuta, corso legale, moneta, sovranità nazionale, autorità bancarie centrali, è quella che spinge tantissimi economisti di straordinario rilievo, lo sapete benissimo, a dire A, che sarà distruzione di valore, B, che quindi a negare il fatto che questo sia un meccanismo di fiducia positivo, dice, e di erosione della fiducia negativa per le conseguenze che avrà, B, a dire guardate che fuori dal controllo, bisogna assolutamente intervenire, normarlo, banche centrali e governo devono entrare al PD uniti, C, lo rappresentano come la mecca delle mafie di tutto il mondo e di ciò che non è tracciabile e di ciò che quindi è innominabile per definizione. E questa cosa qui collegata alla cosa che richiama Mario, cioè all'esplosione, che ci finiscano poi nell'esplosione della tra virgolette bolla sotto chissà quanti increduli che non avevano capito, ci deve portare a dare delle risposte concrete a tutte queste obiezioni. Proviamo a rispondere, Oscar. Eccoci. Allora rispondiamo con i fatti. L'Europol 18 mesi fa ha dichiarato che non ci sono evidenze che i terroristi in Europa usino il Bitcoin, almeno per ora. Il Tesoro inglese 2 anni fa pubblica un rapporto in cui le criptovalute sono all'ultimo posto come fattore di rischio per il riciclaggio, al primo posto ci sono le banche, gli uffici, i commercialisti e gli studi legali. Allora, che Bitcoin possa essere usato per attività criminali, prima o poi, soprattutto tanto più quanto più verrà riconosciuto, utilizzato e accettato, è indubbio. I criminali usano internet, usano la tecnologia dei cellulari, delle comunicazioni mobili, dei trasporti aerei, di internet, insomma useranno un po' di tutto. Ma gli usi fisiopatologici di qualcosa non devono offuscare gli usi fisiologici. Su questi usi fisiologici è bello perché si invita, no, si auspica l'intervento del regolatore. Sì. Il quale regolatore, poverino, un po' è confuso, perché non sa se dire che è una valuta e quindi compete alle banche centrali, non sa se dire se è una security e quindi compete alla Consob, alla SEC, ma soprattutto è veramente divertente vedere questi banchieri. Cioè, che negli, però negli Stati Uniti, diciamo, la decisione di questa settimana è quella di far dire sì al trading dei futures all'autorità che si occupa delle commodity. Sì, quindi sì. Negli Stati Uniti il regolatore una scelta sembra averla fatta. E questo esattamente in linea con è una presa d'atto, esattamente in linea con quello che pensiamo io e te. Non è che lo dichiarano loro, è una presa d'atto, fine, cioè che possono dichiararla. E la verità, il problema è la giurisdizione, caro Nando, è che sono frustrati perché non hanno giurisdizione. Ti prego di commentare su questo punto. Su questo hai assolutamente ragione, perché Bitcoin è transgiurisdizionale, non conosce confini, che è la cosa che ci piace. E questo è assolutamente inquietante. Ma noi, se pensiamo all'evoluzione della storia della moneta, no, come strumento di relazione sociale, perché noi nasciamo in un'economia del dono, dopodiché per commerciare, per cooperare con coloro di cui non ci fidiamo e che non conosciamo, inventiamo prima il baratto, poi la moneta come mezzo di scambio. Oggi, in un'economia dell'informazione che è veramente globale, serve una moneta transnazionale, una moneta di internet, una moneta leggera, istantaneamente trasferibile. E fuori Bitcoin... dalle pretese degli stati nazionali. Questo per me è una grande caratteristica. Aspetta, ti devo fermare solo perché abbiamo un minuto di informazioni di servizio e poi torniamo. Della belva. Dalle domande tantissime che ci state mandando si capisce che molti di voi non hanno chiara che cos'è l'idea, no? Perché Carlo Alberto? La cosa interessante è che mi chiede, ma le tassazioni sui plusvalenze da Bitcoin come funziona? Bello, quando è la prima cosa che si chiede è come facciamo a tassarla. Sì, però il FIR sul Bitcoin. Però chi te lo chiede crede che sia un asset da cui si fanno dividendi di flussi scontabili esatto, futuri. Se è una valuta non si tassa, capisci? Oppure è una grande illusione, siete dei bitcoioni, questo non so cosa potevo leggerla. Questo è uno della finanza probabilmente. Sì, è una grande truffa, vedi che c'è tanta, oppure invece è una cosa bellissima, avanti, è un bene rifugio. Se leggo di cose, leggo cose che voi umani non potete neanche immaginare qua nei flussi. Ma Nando, facci finire questo argomento sulla giurisdizione, perché il vero problema è che per quanto si affannino banche centrali e banche commerciali, la verità è che il Bitcoin gli sfugge e gli sfuggerà sempre. Perché? Ma perché fondamentalmente è un'innovazione permissionless, che non chiede permesso, cioè una tecnologia in cui la struttura tecnologica, la struttura di teoria dei giochi, la crittografia sottostante, i sistemi distribuiti dei network fanno in maniera che non si chiede permesso al regolatore. Ma d'altronde l'abbiamo già visto e capito. L'email non è stato inventato da un consorzio di uffici postali. No, come? No, aspetta, ogni volta mi tocca dire: guarda, che Mariana Mazzuccato è convinta di sì, che è lo Stato che ha inventato tutto. Poverina, cioè, dai, coraggio. Internet non è stata inventata certamente da un consorzio di telecomunicazioni. Che qui si immagini che una economia transnazionale di pagamenti peer-to-peer venga inventata e regolata da banche e regolatori, a me sembra completamente implausibile. Ecco, però c'è un altro tema che è il prezzo, perché sulla natura abbiamo discusso, e invece il prezzo è un'altra cosa, nel senso che il prezzo dipende dalle relazioni di domanda e offerta. Siccome non c'è effettivamente un valore intrinseco di Bitcoin, peraltro non capisco che il valore intrinseco possa avere un biglietto da un dollaro, no? C'è qualcuno che dice che l'oro ha un valore intrinseco, vero, se producete dentiere o fate gioielli, capisco, ma per il resto non ha valore intrinseco. Il prezzo del Bitcoin, io ti do un dato di un bellissimo paper appena fatto dalla Banca Internazionale dei Settlement, che dice che il coefficiente di variazione del prezzo del Bitcoin nell'ultimo anno è stato praticamente pari a 1. Che cos'è il coefficiente di variazione? Il rapporto fra la deviazione standard e la media, cioè è il principio della media di Taylor russa, ovvero che dire quanto vale in media un Bitcoin è statisticamente irrilevante, può variare di tantissimo. Quindi non abbiamo un prezzo di riferimento e non c'è, però volevo chiederti un commento su questo andamento del prezzo. Che cosa sta a indicare questa grande attenzione e quindi questo grande saliscendi del prezzo del Bitcoin? Ma allora sta a individuare la difficoltà di comprendere cos'è Bitcoin, perché Bitcoin appunto è l'incrocio di teoria monetaria ed economica, di teoria dei giochi, di criptografia e di sistemi distribuiti, aree che è difficile per una singola persona padroneggiare. Esatto. Quindi qualcosa di difficile possiamo da comprendere, dire con una certa brutalità, anche se è un economista molto affermato, scusa se te lo dico. Al tempo stesso sempre più persone capiscono la proposizione di oro digitale. E quindi dicono, ma se questo è veramente oro digitale, se Bitcoin fosse veramente oro digitale, non potremmo che concludere che oggi è straordinariamente sottovalutato. Se invece non fosse oro digitale, perché ha dei problemi che oggi io sinceramente non vedo, ma non posso escludere a priori, evidentemente tra 5 anni varrà zero. Ma questa non è la bolla dei tulipani, perché vi prego, ho tanta gente che mi scrive: no, sono dei tulipani, sono i segni dei tulipani. Perché il giornale è la cosa più pigramente che hanno riproposto all'inizio. Ma parliamoci chiaramente: un fenomeno durato 6 mesi. Nell'Olanda del 1637, pensiamo veramente di poterlo paragonare a un fenomeno che dura 9 anni. Io vorrei farti parlare, con i direttori generalisti, poi vedresti che la risposta che ti dai è sì, perché è l'unica cosa che capisco. Mario lo sento borbottare con la sua pentola di fagioli. Parola, prego. Posso borbottare a microfono aperto. Mario, commentami su questo, se puoi, perché tu giustamente hai accennato è una bolla. Io ritengo che non sia una bolla speculativa. Io ritengo che al massimo c'è l'euforia, la confusione e lo sconcertamento prodotto da una grande, non controllata corsa all'oro. Allora, sentiamo Mario che dice. Digitale. Sentiamo Mario. Allora, quando intanto il Bitcoin, in quanto quantità finita di unità di conto, è intrinsecamente deflazionistico iperdeflazionistico. L'immagine speculare di questa sua natura sta nelle quotazioni. Quotazioni che sono alimentate dalla enorme bolla di liquidità che le banche centrali hanno insufflato nel sistema negli ultimi anni, per cui tutto si tiene. Alla fine, in un ecosistema, forse c'è spazio anche per il Bitcoin, nel senso che c'è domanda da parte di chi manifesta per convincimenti libertari o di altra natura diffidenza e sfiducia verso le banche centrali e la loro capacità di preservare il potere d'acquisto della moneta, e anche chi teme che andiamo verso un'era di disordine monetario. Ecco, bravo, perché io questo aspetta, accoppiamo a questo scenario questa cosa ultima che hai detto non è secondaria, ecco. Ma il fatto che se no accoppiamo a tutti questi scenari di contesto il fatto che ci sono 21 milioni di pezzi di Bitcoin, poi sarebbe anche utile magari, Nando, discutere sull'entropia che si genera e sulla dissipazione di energia necessaria all'attività di mining, perché quello è l'equivalente di energia nel senso proprio, caro ascoltatore, di energia elettrica, sta dicendo. Energia elettrica, quello è l'equivalente di signoraggio, e non viene catturato dallo Stato sovrano, ma non si sa bene da chi, dai miner viene catturato, credo. Quindi i problemi sono molti. Poi che non sia una bolla speculativa, basta vedere l'andamento parabolico delle quotazioni. Il fatto che si crei una borsa future serve per calmierare, per dare liquidità mietere una valanga di soldi quando ci sarà lo boom. Per cui non è nulla di inedito, secondo me, e trae le sue basi proprio dalla sfiducia nei confronti degli stati sovrani e delle banche centrali. Quindi sono le banche centrali che alimentano questo genio. Per certi aspetti sì, ma capisci, io dubito fortemente che si arrivi ad un'era in cui questo strumento di pagamento, o in che altro modo vogliamo definirlo, arriverà ad avere una diffusione massima. Per arrivare a quell'era noi dovremmo avere il collasso del sistema del dollaro come valuta di riserva. Non sono d'accordo. Posto che voglio dare un numero, 180 miliardi di capitalizzazione, non stiamo parlando di qualcosa che può spostare gli equilibri mondiali, stiamo parlando di una media azienda americana, ecco, di questo stiamo parlando. Quindi per favore mettiamo tutti nel termine corretto le metriche. Però questo tema, se posso, del valore, la verità è che sappiamo che c'è una quantità finita, quindi la matematica l'ha definita, non ci può essere nessun intervento umano a cambiare la quantità. Quindi il trucco storico delle banche centrali, che è stato quello usato in questi anni, di toccare la base monetaria, col Bitcoin non è possibile. Questo produce un elemento di fiducia interessante. Ma guarda che, scusami Carlo Alberto, ma c'è già stato un fenomeno del genere nella storia dell'umanità recente, si chiamava gold standard, e non mi pare che sia finita benissimo, o sbaglio? Ma ci possono essere dei nuovi tentativi di gold standard che in un'economia tecnologica estremamente veloce potrebbero in realtà rivalutare esperimenti. Io su questo credo che le banche centrali intelligenti dovrebbero iniziare a ragionare in questo modo, non come sta facendo l'Estonia, che al momento dice ma ne possiamo fare una noi. No, è un'altra cosa proprio, è un elemento di fiducia estranea a una maniera diversa tecnologicamente di ancorare l'idea delle banche, quelle invece delle banche centrali. Ne riparleremo perché è una grande sfida. Grazie intanto da Metrano e noi ci sentiamo dopo giorno. I conti della Belva. Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle e le torri gemelle? Quelle che non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio? E se ti suono un po' il banjo? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro? Perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del sesso. Eccolo qua, tutti gli studenti di Carlo Alberto in fila. Così, caro Oscar, qua ci stanno scrivendo tutti. Ma come, i selfie? Siamo un popolo di anziani, com'è possibile che siano al centro dei... Vedi la risposta, il paese vero, caro Alberto. Il paese vero risponde che i selfie fanno dividere. E qualcuno mi dice, andate su Instagram e vi voglio dimostrare che non solo Censis ha ragione, ma è stato addirittura prudente. Purtroppo è no, così. Ma Carlo Alberto la pensa così. Ma in realtà il professor Carlo Alberto scambia l'intensissimo traffico di selfie delle sue studentesse per passare l'esame come se fosse una cosa di ascesa sociale. Si chiama corruzione, quella è un'altra cosa, caro professore, non glielo devo spiegare. In questo momento è diventato viola. E comunque stavo scherzando, ecco, lo dico per la signora Maffei in ascolto, stavo scherzando. E poi ci sono i bitcoin che stanno esplodendo. La vera bolla è quella dei commenti su bitcoin. Sento di tutto, del tipo che sono energivori, è vero, sì, ma i computer sono accesi lo stesso, per la verità, che sono appunto i famosi tulipani. E poi c'è gente che dice scusate, non abbiamo però capito. Però c'è anche chi contesta radicalmente il fatto che la certificazione sia diffusa, perché l'obiezione è che i miners sono tre e sono tutti in Cina. Sarebbero non più di tre, sono tutti in Cina, dice un nostro, a quanto pare, informatissimo ascoltatore. Chiederemo subito a Pasquale, a Ferdinando, a Metrano, scusate, ma intanto noi abbiamo un ascoltatore che questa settimana, quando in un'altra trasmissione mattutina abbiamo sfiorato sempre con Ferdinando Metrano l'argomento, si è fatto vivo, si chiama Lucio Cosmo. Io lo ringrazio di essersi reso disponibile per darci questa sua testimonianza, che così giriamo automaticamente a Ferdinando Metrano per fargli dare una risposta. Lucio, allora, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, cosa è capitato? Allora, il mio approccio da addetto ai lavori nella tecnologia e non nella finanza è stato attraverso amici che hanno chiesto aiuto per sbloccare il computer. Sì. La sintesi è che dei software scaricati attraverso inganno, distrazione, truffa nello user space dell'utente possono fare tutto quello che fa l'utente. Quindi, a nostra insaputa, iniziano a criptare file, iniziano a raggiungere tutti i server che possono raggiungere come farebbe l'utente, e questo non è un problema, non è novità, i virus per computer, i software malevoli esistono da certo. Tutto questo avviene in background mentre lavoriamo o mentre non lavoriamo, lasciamo il computer con lo screen saver acceso eccetera. Ma quando l'operazione è finita o quando facciamo accesso a uno di questi file appare un pop-up che chiede un riscatto per ottenere la chiave per sbloccare i miei file. E il riscatto come deve essere risolto? In? Guarda caso, ultimamente viene risolto in Bitcoin. Al che, 2 anni fa, quando ho iniziato a vedere questa cosa e non sapevo, non mi ero interessato, da detto ai lavori, in cosa fosse questo oggetto di scambio, che per me è una delle tante costruzioni mentali informatiche possibili, ho cominciato ad avere delle perplessità, ho sentito altre cose, mi sono informato, mi sono capitati altri amici con lo stesso problema, in forme diverse, e al di là di tutto il bel parlare che si fa di Bitcoin, di questa nuova moneta, di questo grosso chit chat, quello che non esiste è come mettere in contatto il Bitcoin in modo sicuro fuori dalla bolla della virtualità del Bitcoin, per cui il possessore non è raggiungibile, non è certificato. Mi hanno spiegato che in finanza si traduce come se fossero dei conti svizzeri. Ora, io nei miei software e nei software comuni che utilizziamo tutti, faccio all'installazione un'operazione che è validare, per esempio, WhatsApp attraverso un codice che viene inviato via SMS. Questa operazione sposta la certificazione dell'utente sulla compagnia telefonica, dove, guarda caso, io ho un contratto e dove tutti sanno chi sono. Fino a che questo non avviene sui conti Bitcoin, io non posso sapere chi c'è dall'altra parte e quindi continuerò a mandare del denaro a sconosciuti che anche la polizia, l'FBI, hanno problemi a tracciare e riconoscere. Ok, chiarissima la cosa. Che diciamo, Ferdinando? Diciamo che mi piacerebbe che questi stessi criteri si applicassero all'oro fisico, no? Per cui bisogna entrare nella struttura atomica dell'oro e incidervi il nome del proprietario nell'orbita più esterna degli elettroni. È evidente che se è uno strumento al portatore, è uno strumento al portatore. Come dire, sulla banconota dobbiamo dire a chi appartiene. Qui ci sono i grandi fraintendimenti culturali di questo momento, cioè noi viviamo in un'epoca in cui i paradigmi di sicurezza sono tutti basati sul il monitoraggio di massa delle nostre, esatto, conversazioni e di quel sottoinsieme di conversazioni da parte che del sono signor Stato. Le transazioni finanziarie. Ora, noi viviamo in democrazia, ma non dimentichiamoci che 70 anni fa qui c'era Hitler, Stalin e Mussolini, non dimentichiamoci del Nord Corea, del Myanmar e della dittatura cinese. Cioè queste... In questa ossessione per il controllo assoluto, io spero che qualche inquietudine lungo la schiena ai libertari la faccia ancora venire. Ma peraltro, purtroppo ho i dubbi, lo sai, su questo. Siamo in minoranza assoluta perché noi appariamo come i servi del crimine internazionale. Questo è il punto. Certo. La cosa per la quale... Aspetta, chi ci ha telefonato? Chi ci ha telefonato? Dice, no, un momento, voi non me la contate giusta. Voi siete l'avanguardia intellettuale, sì, ce lo stanno di quelli scrivendo, che nel mio, sì, mestiere però chiedono il riscatto in maniera da non essere acchiappati dalla polizia. Questo è il punto, la capisci? Quindi noi entriamo adesso in una sfera nella quale non solo non riusciamo a spiegare l'innovazione libertaria di questa roba qua, che siccome confligge con le pretese dello Stato viene immediatamente rappresentata come il male, ma diventiamo non solo il male perché sottratto al controllo, no, lo strumento delle mafie. Questa è una cosa pazzesca, come se uguale obiezione fosse stata sollevata per decenni ai narcotrafficanti che si facevano pagare in dollari, la colpa era degli Stati Uniti per i dollari, ecco, e invece diventa questo. Però precisiamo, Nando, il attacco strumentale, ecco. Però evidentemente da un lato c'è un dibattito pubblico di altissimo livello, pensiamo all'opposizione che Apple ha fatto a rilasciare un sistema operativo iOS bucato per facilitare le indagini dell'FBI, no? Ha collaborato con le indagini, ma poi ha ritenuto che strumenti così pervasivi di controllo di massa fossero troppo pericolosi e che per craccare il telefonino del terrorista di San Bernardino era giusto spendere $1-2 milioni su quel telefonino e non rendere insicuri tutti. Posso dirti però, Nando, un tema importante: la Open Ledger Technology non è vero che non è tracciabile, è il contrario, è pienamente tracciabile. Semmai è il titolare della transazione che è anonimo, ma non è la transazione che non è tracciabile. È molto più tracciabile il Bitcoin di quello che succede con le banche tradizionalmente. Mi dispiace, ma questo va detto. Per oggi è assolutamente così. Oggi Bitcoin lascia delle scie elettroniche che se io fossi un criminale non userei Bitcoin. Bravo, ecco, però questo è... No, ma diciamolo, perché la Open Ledger Technology a questo però serve. Però dobbiamo dire anche che per oggi, cioè la tracciabilità... Spariranno Bitcoin, presto. La tracciabilità di Bitcoin è piuttosto una bug, non davvero una feature. Esatto. Perché, per esempio, tutti criticano Bitcoin e tipicamente lo criticano per i motivi più irragionevoli e più implausibili possibili. L'unica vera critica reale all'affermazione della possibilità di creare un oro digitale è quella sulla fungibilità. Cioè, mentre gli atomi d'oro sono tutti identici e magari nella fede nuziale che mia moglie porta al dito c'è un grammo d'oro coinvolto 300 anni fa in un sanguinosissimo crimine, lei non lo sa e non ha problemi, mentre se lo sapesse non vorrebbe indossare quell'anellino. No, lei lo sa e non ha problemi, infatti ti ha sposato perché sei un criminale. Questo è il punto. Caro mio. Invece purtroppo di Bitcoin è tracciabile tutto. Io potrei dire, io per un Bitcoin che viene dal Genesis Block, dall'inizio, esatto, della blockchain di Satoshi Nakamoto, sono disponibile a pagare $20,000. E questo crea una non fungibilità. Allora qui non si tratta di aiutare i criminali, ma si tratta che se è oro digitale dovrà risolvere questo problema. Fra l'altro, mentre noi parliamo, spero voi siete avvertiti che Bitcoin ha raggiunto il nuovo record storico, superando 11.000 dollari, perché dicono che il supporto di Giannino ha un ruolo fondamentale. Non credo proprio, ma torniamo alla cosa fondamentale che ha detto Metrano prima di salutarci, la non replicabilità. Guardate, questa formuletta, che sembra una cosa che molti di voi non hanno capito, è una questione fondamentale, digitale non replicabile. Sì, sì, la proof of work, che è l'elemento che certifica che una transazione non può essere duplicata, visto, è un elemento importante. Visto con la vostra curiosità, torneremo a occuparcene, questa volta con degli esempi a fitta, quindi facciamo un corso al volo, perché tanto vedo che bisognerà affrontare le critiche e le preoccupazioni giuste come quella di Mario e tante altre che sono infondate dei signori gestori che, siccome non hanno in mano l'attività, la dipingono e la fanno dipingere come se fosse solamente criminale, come devo dire. Ecco, questo è quello che passa. Allora torniamo tra poco con Israele. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta con i compari qui in studio. Carlo Alberto. E collegato Mario. Eccolo. Mario, ti abbiamo un po' soffocato nella nostra cosa. Sono in colpa. No, ma quello che dovevo dire ho detto. Ecco. Cioè, poi volevo solo aggiungere una piccola cosa a corredo di quello che ho detto prima. 21 milioni di pezzi. Non è, come diceva Carlo Alberto, uno strumento destinabile alla circolazione planetaria, ma se le cose stanno in questi termini, allora stiamo esagerando nella portata. Sì. E se non stiamo esagerando nella portata, magari un bel giorno a qualcuno verrà in mente di modificare l'algoritmo e di portare i 21 milioni di pezzi a 42. Ma devi convincere il 51% degli utenti, questo è il problema, Mario. Che quell'algoritmo non lo puoi modificare se non metti d'accordo tutti, che è il vero costo, la scarsità, sta nella massa critica, Mario. Questo è il problema. Perché non li convincerai? Perché saranno lunghi delle posizioni di Bitcoin. Benissimo. E per loro è il loro interesse. Infatti, avere quella funzione matematica non la cambi. Allora, esattamente per quello che hai detto. Quindi autoimplode. Ma vedrete che dovremo continuare a occuparci. Ce n'è un sabato sì, un sabato no almeno, perché c'è stata una partecipazione oggi, un vero oggi non ho mai visto tanti che messaggi testimonia, che testimonia che questo è un punto sul quale il nostro mestiere di approfondire e fare informazione deve prevalere anche sui nostri punti di vista, perché temo che l'informazione generalista non stia inquadrando con la ricchezza di approfondimenti, che significa punti di vista di professionisti diversi, perché ci sono quattro diversi ambiti che intervengono, perché c'è un ambito distributivo, c'è un ambito tecnologico, c'è un ambito che ha a che vedere con le monete e che cosa sono e come si regolano, c'è un ambito che ha a che vedere invece con le commodity, quindi sono quattro diversi ambiti professionali che servono insieme per fare informazione come si deve, a fare capire che cosa è e che cosa non è Bitcoin. Quindi secondo me ci dobbiamo prendere l'impegno a tornarci sopra, però ragazzi, uno dei nostri impegni è quello di ricordarci delle grandi cose avvenute nella storia che continuano a essere tutti i giorni una lezione aperta, che non vanno dimenticate, perché continuano a essere un banco di prova di riferimento per chi ha una certa civiltà come quella che ci accomuna in questa trasmissione. E allora per questo oggi abbiamo deciso di dedicare un po' di tempo a una cosa che è avvenuta nel 1947, quindi 70 anni fa, caro Alberto e caro Mario, ed è una cosa di fronte alla quale persone come noi si alzano in piedi sempre, perché la nascita di Israele, la nascita cioè di un compimento, di una missione che è quella prima che nazionale e terra e confini, è quella di un riscatto a 2000 anni di diaspora e di forme evolutive sempre più tragicamente disumane che l'Occidente purtroppo ha riservato a quel popolo, e non solo il senso storico dopo la Shoah, ma l'evoluzione che nel tempo, l'esperienza concreta di Israele, delle sue istituzioni, del suo popolo nel tempo ha avuto di fronte allo scenario di guerra del Medio Oriente, agli attacchi ai diritti disconosciuti della sua esistenza in sicurezza e agli equilibri geopolitici e geostrategici che sono cambiati radicalmente e che vedono oggi, ecco questa è la mia maniera oggi di aver chiesto al nostro ospite di ricordare i 70 anni di Israele che ci uniscono in un abbraccio al suo popolo e agli ebrei di tutto il mondo, perché io sono anche sionista, lo ammetto, però nel chiedergli molto semplicemente, a 70 anni di Israele, come è potuto avvenire che noi in Italia, ma l'Europa nel suo complesso, e purtroppo mi sembra anche l'Occidente, ma sicuramente l'Europa, abbiano deciso in questi ultimi anni di volgere la testa dall'altra parte e di non essere in alcun modo presenti come attori e protagonisti alla redistribuzione delle carte al tavolo medio orientale, che avviene con Putin, che è il cartaro di fatto per il ruolo che ha assunto nel conflitto siriano e nell'avvio alla soluzione, diciamo così, del conflitto siriano, di fronte all'Iran da una parte, che si è costruito un corridoio che va oramai fino al Mediterraneo con Hezbollah, e dall'altra alla reazione saudita con il principe della corona, che dice: non possiamo accettare un equilibrio così pregiudicato a favore di Teheran nell'area. Ecco, di fronte a tutto questo, siccome Israele è il perno lasciato solo, si dirà: Netanyahu non ci piace, questo è ciò che leggiamo nel giornalismo mainstream, però noi abbiamo deciso di non occuparci, e questo nel 70° anniversario di Israele. Allora abbiamo chiamato il direttore della stampa Maurizio Molinari, che ringrazio di essere con noi, per tentare di farci capire come è possibile che, dimenticando l'importanza di quell'anniversario, abbiamo anche deciso di non essere lì. Perché, secondo te? Grazie di essere con noi. Buongiorno Oscar Giannini e a chi ci ascolta. 70 anni fa, il 29 novembre del 1947, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'ONU, decideva la divisione della Palestina mandataria britannica in due stati, lo Stato ebraico e lo Stato arabo. Gli ebrei, sulla base di quella decisione, crearono lo Stato di Israele. Gli arabi rifiutarono la creazione dello Stato arabo, dando inizio al conflitto che ancora oggi dura. A 70 anni dall'epoca, Israele, dopo essere sopravvissuta a innumerevoli aggressioni, attacchi di ogni genere e tipo, oggi è un'economia protagonista della stagione dell'innovazione tecnologica. E questo è qualcosa che fa riflettere e che trasforma questo angolo di Medio Oriente, non solamente nella culla dei valori occidentali, frutto di 2000 anni di permanenza degli ebrei in Occidente, ma anche nell'avanguardia dello sviluppo tecnologico del pianeta. Di fatto, l'unica vera concorrente della Silicon Valley a livello globale è l'area urbana di Tel Aviv. Tutto ciò appartiene all'Occidente, ma un Occidente che ha difficoltà a tutelare i propri valori. Questo avviene a Washington, avviene a Bruxelles, avviene a Berlino, avviene anche quando si parla dell'angolo di Occidente che si trova in Medio Oriente. E giustamente quello che avete detto, in questo momento il Medio Oriente attraversa una fase di ridefinizione, dove il primo protagonista è la Russia di Putin e il secondo sicuramente è l'Iran di Khamenei, che è la vera potenza egemone sul terreno. Il grande protettore è la Russia, ma la potenza egemone di fatto è l'Iran, il cui intento è distruggere lo Stato di Israele a 70 anni dalla sua nascita. Oimè, la chiarezza con cui Maurizio Molinari, che ringrazio, interviene, dovrebbe farci riflettere. Direttore, però volevo chiederti un commento su come mai Israele eccelle nella sicurezza, nelle tecnologie elettroniche. E fammi dire anche un'altra cosa che mi sta a cuore, no? Per esempio nell'agricoltura, trasformando un pezzo di deserto, un fazzoletto di sabbia, in uno dei laboratori più straordinari dell'innovazione agricola per il mondo intero, perché ci sta dimostrando come con la tecnologia e con la scienza puoi rendere sostenibile l'alimentazione mondiale con risorse praticamente limitatissime. Mi interessa il tuo commento sul contributo che Israele sta dando al mondo, perché poi sono tecnologie che scalano e si esportano al resto del mondo. Questa domanda io l'ho fatta a un signore che si chiama Ariel Kochavi, che è entrato nell'ultimo anno nella top list dei primi 15 leader tecnologici del pianeta, la cui azienda usa l'aggiornamento dei condizionatori d'aria, quelli tradizionali che sono nelle case, per produrre 40 ettolitri di acqua potabile per ogni unità, e quindi ha venduto nel 2016 un milione di questi produttori di acqua potabile allo Stato dell'India. Ho chiesto a Rieko Javi: ma voi come fate? Cioè, qual è la genesi della Startup Nation? E lui mi ha risposto: il motto che insegnano a qualsiasi soldato israeliano nella prima settimana di leva. Gli ho chiesto: qual è il motto? E il motto, mi ha detto, è fix it and make it better. Esatto. Cioè, aggiusta e migliora, aggiusta e migliora, aggiusta e migliora. in continuazione. E quando gli ho chiesto fammi un esempio di che cosa significa per l'esercito israeliano fix it and make it better, lui mi ha detto, dice, vedi, molto spesso noi acquistiamo armi dagli Stati Uniti, che siano carri armati o che siano aerei, loro ce li consegnano e sono tutti uguali, cioè ci consegnano 12 carri armati o 12 aerei e sono tutti uguali, tornano un anno dopo e non capiscono più perché noi abbiamo 12 carri armati diversi e 12 aerei diversi e ci chiedono ma com'è possibile, è perché noi gli rispondiamo ogni carro armato, ogni singolo carro armato ha una missione diversa. In questo senso un po' assomigliamo noi italiani alla cultura degli israeliani. Poi faccio un paragone su questo. C'è qualcosa che accomuna Italia e Israele in questo rapporto con la tecnologia e con la continua rielaborazione della sfida tecnologica? Anche noi siamo un popolo senza materie prime e tutto sommato che si è reinventato da zero. Assolutamente sì. Roma e Gerusalemme sono legate da una comunanza antica sul piano dei valori e sul piano della creatività degli individui. È qualcosa di molto vero, che spiega perché ci sono almeno 50.000 israeliani che non hanno origini italiane ma parlano italiano, perché si sono formati nel nostro paese. La realtà vera è che dall'indomani della Seconda Guerra Mondiale, a dispetto molto spesso da politiche dei nostri governi ostili nei confronti di Israele, l'Italia come nazione è stata accogliente per migliaia di israeliani che si sono formati nelle nostre università e che oggi di fatto rappresentano l'Italia nel loro paese. Grazie a Maurizio Molinari. Una Perfetto. Domanda su questa anche con noi, il direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale della Sicurezza dell'Università di Modena, Reggio Emilia, Michele Colaianni, che è appunto è uno degli esempi concreti di ponti di ricerca in questo campo, direttamente tra le start-up e le imprese tecnologicamente avanzate israeliane attive sul tema della cyber security. Anche in quel caso è un'evoluzione delle necessità militari di Tzal, delle forze armate israeliane, la mitica unità 8200 di cui tutti abbiamo letto nel tempo, che è stato un incubatore di innovazione dal punto di vista della cyber security e che poi ha nidiato decine e decine e decine di imprese che in questo sono diventati leader a livello mondiale. Quando dico mondiale significa che gli Stati Uniti sono caudatari rispetto a loro, e noi abbiamo nel tempo, anche noi con le nostre startup knowledge intensive avanzate su questo, iniziato a costruire dei ponti. Ecco, Michele Colaianni è proprio alla testa di uno di quei ponti. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Da questo punto di vista, possiamo capire l'apprezzamento che si può fare in termini quantitativi e di sviluppo della collaborazione diretta tra ciò che si fa da noi e ciò che loro hanno iniziato a fare prima? Qual è? Ma guardi, il direttore prima ha segnalato alcune notizie fondamentali. Israele è un paese in guerra dal 1947 e spesso ci se ne dimentica, e ha una caratteristica di similarità con noi per l'individualismo. Ecco, loro sono individualisti ma legati da un paese in guerra, noi siamo individualisti slegati. E quindi il modello israeliano non è facilmente, probabilmente impossibile da portare da noi. Tuttavia ci sono degli esempi di facilitazione all'impresa. Loro mi dicono sempre, noi presentiamo 12 slide e se piacciamo ci danno 50.000 euro, dopodiché ci vengono a trovare dopo un anno. Se ce li siamo andati a divertire sulle spiagge di Tel Aviv, benissimo. Se invece abbiamo lavorato duramente, moltiplicano per 10. E così per l'anno successivo e poi per 10, con delle facilitazioni sia di tasse e anche dal punto di vista di ospitalità. Ecco, tutto questo potrebbe essere portato da noi. Adesso so che con lei tocco un tasto facile, ma sì. non si possono uccidere le start-up sul nascere, esatto. Soprattutto quelle di alta innovazione. Il primo anno pagano il 70% sugli utili. Eh già. È una cosa sulla quale invece di fare tanti convegni la web tax per tassarle ancora di più, almeno non possono investire in internet, non sia mai che si osino affacciarsi alla tecnologia, devono Perché poi ci chiediamo perché altrove gli habitat sono più favorevoli, ci facciamo delle domande che hanno a che vedere con il DNA e la cultura, però ci sono anche dei problemi di infrastrutturali, nel senso che ci sono delle infrastrutture fisiche come sono gli ostacoli finanziari e quelli al credito e quelli fiscali e quelli amministrativi che rappresentano delle barriere pressoché insuperabili. Grazie anche a Michele Colaianni, noi torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamo. conti della belva. Eccoci qua, tornati in diretta, e questo spazio lo dedichiamo alla nostra rubrica Stato Ladro! Rubrica Stato Ladro! Rubrica Stato Ladro! Ecco, prima due testimonianze dei nostri ascoltatori, poi se ne seguirà un altro invece che ci ha telefonato in settimana. Questa sigletta, però, per raccontarci quasi la strada. Rubrica Stato Ladro! Sai chi ti ricorda? Mi dispiace registrarla, che la mettiamo anche la settimana perché prossima. È la cosa. Rifalla, Oscar! Rubrica Stato Ladro! Che rubrica bello. Stato Ladro! Era la cosa dei quei singolari quattro pupazzetti di colore diverso per bambini che emergevano da sottoterra, fatta in Gran Bretagna, i Teletubbies. Ecco. Teletubbies. Ecco, allora, detto questo, primo ascoltatore che ci scrive, questo ci scrive da Sydney, si chiama Matteo Bernardini, dice: volevo brevemente raccontarvi la mia esperienza con l'Australia Taxation Office. Vivo in Australia da 6 anni, vi ascolto tutti i giorni in podcast, ho sempre fatto lo sceneggiatore freelance, da 3 anni ho aperto un piccolissimo business di IT consulting. È una cosa marginale, insomma mi dà poco più in realtà di $1,000 australiani al mese, però benissimo. Qui in Australia la tax free threshold, cioè la soglia di esenzione fiscale, $18,000 l'anno, e quindi su quello non avevo le tasse da pagare. Stamattina ricevo una lettera dall'Australian Taxation Office che dice che devo pagare una multa di $3,000 per mancata comunicazione all'erario, per non aver mandato la dichiarazione, insomma €1,000 l'anno per ogni mancata dichiarazione. Indago col mio commercialista, scopro che per un disguido tra noi in effetti non ha mai mandato nulla, perfida nota a margine. Qui invece dell'anticipo IVA hai 3 mesi dopo la fine dell'anno fiscale per mandare la dichiarazione e un altro ulteriore mese per pagare. Entro in panico perché mi viene in mente che cosa mi può capitare, reduce naturalmente dai ricordi dell'Agenzia delle Entrate di Equitalia nel nostro paese, e quindi trepidante chiamo il numero verde dello Australian Taxation Office. Nel giro di mezz'ora succede quanto segue. Mezz'ora. Una cordialissima signorina mi aiuta a fare la dichiarazione online per tutti i 3 anni mancanti che mi erano stati contestati. Ci mettiamo nemmeno 3 minuti di orologio. Mi passa poi un'altra sua ancor più cordiale collega dell'ufficio debiti, che mi mette in attesa per circa 1 minuto e 45 secondi cronometrati mentre fa dei controlli. Quando torna in linea, mi dice: non c'è problema, le annullo tutte le multe, tutte i $3,000 australiani di multe al volo. Ha bisogno di aiuto per qualcos'altro? No, a posto, così, dico io, no, senza non fiato. Non è dall'Australia, fine è da Marte. Della cosa telefonata, dico un'eresia? Io posso dirti solo una cosa, forse incorro in qualche nuova mancanza fiscale per il puro piacere fisico di parlare con loro. Matteo Bernardini, non l'ho scritta io, Sydney, ti voglio bene Matteo, soprattutto mandaci le foto delle addette dell'Agenzia delle Entrate, portaci un po' di canguri. 3 minuti, 1 minuto e 45, non so se è chiaro. Seconda lettera, Paolo Patrizi che ci scrive da Parigi, questo lo conosco da quando era giovane, ora lavora in Francia alla progettazione delle nuove linee della metropolitana, al progetto Le Grand Paris, dove paga le tasse ovviamente, felice di farlo. Il mese scorso ha dimenticato di pagare le tasse, ci scrive Paolo Patrizi, non perché non volessi, leggo, ma perché lo Stato francese fa un prelievo automatico sul mio conto alle scadenze, non mi sono accorto che quest'anno non l'ho fatto per motivi di ordine logistico, perché io avevo cambiato la mia residenza, ci scrive Paolo. Quindi mi invia una lettera in cui dice testualmente, virgolette, dovevi pagare €6,500 il 20 ottobre, oggi siamo al 27, non è ancora pagato, quindi pagherà entro giorni con una entro 30 giorni con una maggiorazione del 10%. E io rispondo con una mail: scusa Stato francese, hai ragione, ecco in allegato il mio pagamento, dal quale però io defalco la multa perché non penso sia dovuta per i seguenti motivi, e spiego che il motivo è il cambio della mia residenza. Cosa succede a quel punto? Mi scrive Paolo. Dopo 33 minuti, lo Stato francese risponde alla mia mail: certo, hai ragione, non c'è problema, mandami gli estremi del bonifico ed eliminiamo automaticamente la multa. E questa è la Francia, capisco. Non l'Australia, capisco. Poi appena un cenno sul fatto che, per il fatto che in Francia vige il sistema del quoziente familiare, ci dice poi che rispetto a noi paga molte più tasse a parità di reddito. 33 minuti dalla sua risposta online, lo Stato gli risponde dicendo: estremi del bonifico, multa annullata. Ma capite che cosa vuol dire? Io vi leggo questo. Ieri c'è stata la quantificazione di quanto è costato lo spesometro ai fessi come me e ai nostri commercialisti vittime dello Stato. Lo spesometro 2017 è costato agli operatori circa €1 miliardo, l'onere che il nuovo adempimento IVA ha imposto alle imprese e ai loro collaboratori fiscali e ai contribuenti italiani. Quindi in generale l'importo è frutto di una stima condotta su un campione rappresentativo di imprese realizzata dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti e Confimindustria, presentata nel corso dei lavori al 14° Convegno Nazionale mondiale dell'associazione tenutasi ieri a Pisa. Questa è la differenza, quelli in 33 minuti hanno la risposta, noi paghiamo di più per dover comunicare dati che loro hanno già e ce la prendiamo nel culo. Scusate se ve lo dico come sono abituato. E adesso un'altra prova di come si comporta lo Stato verso i comuni cittadini, cioè noi, dicendoci che la colpa è nostra, perché c'è un altro ascoltatore che per un altro aspetto che abbiamo toccato, lo scandalo del comportamento asimmetrico dello Stato in questa settimana, ci ha scritto e io gli ho detto: per favore, ti rendi disponibile a raccontarci la tua storia e lo scandalo dei TFR pagati dopo anni. Ed è con noi Francesco Cittadini, che appunto ci ha scritto una mail. Francesco, grazie di essere con noi e di volerne parlare in pubblico. Buongiorno Giannino, grazie. Qual è il suo caso? Beh, semplicemente io ho fatto anni di amministrazione provinciale, poi per le note vicende dell'abolizione e ristrutturazione provincia sono stato mandato in pensione insieme ad un'altra cinquantina di colleghi e ci è stato detto chiaramente che veniva pagata la liquidazione 2 anni dopo ai sensi di quanto previsto dalle circolari dell'INPS in base alla legge di stabilità 2014 a firma Saccomanni Letta. Già. La buffonata ulteriore è stata poi che secondo la legge Fornero io non avrei potuto andare in pensione, dovevo aspettare ancora 2 anni, quindi l'INPS mi comunica, sì, noi te li daremo fra 2 anni, ma dalla scadenza naturale che era secondo la Fornero, quindi mi aggiungono ulteriori 2 anni. Quindi diventano, l'INPS, lo Stato ti dice che il tuo TFR ti verrà liquidato 4 anni e 4 mesi dopo. Esatto, ad aprile del 2019 e io sono andato in pensione il 1° dicembre del 2016. Il problema grosso è che il terrore che a me e a alcuni colleghi sta venendo è: ma a questo punto, finito il ciclo dei primi 2 anni di rimando in cui l'INPS ha ricevuto una boccata d'aria, il ciclo torna tutto normale, giusto? Perché si ricomincia a pagare gli ex e poi i nuovi e tutto ritorna normale. Quindi l'INPS cosa sta facendo? Sta usufruendo della clausola che le permette di allungare di ulteriori 3 mesi. Ormai questo è stabilizzato, ma non solo. Ma dice anche: guardate che io dopo i 2 anni e 3 mesi posso allungare ulteriori 6 mesi, in questo caso magnanimamente vi riconosceremo un interesse pare a quello che diamo sui CCT, quindi zero. Da lei, se no, no, guardate, questa modalità e questo è un furto con scasso. Dopodiché, sì, non mi venite a dire, cari ascoltatori, perché alcuni si sono immediatamente fatti dicendo: però devi dire che ci sono le grandi banche italiane che sono disponibili ad anticipare. Sono disponibili ad anticipare, mica gratis. Ragazzi, infatti, la seconda parte della faccenda è che a questo punto, avendo io calcolato ai tempi che potevo mantenere mio figlio a finire l'università a Torino, quindi fuori sede con enormi spese, ho detto va bene, metto la mia liquidazione sul piatto, non arriva, vado in banca dicendo vabbè, mi proporranno un classico prestito al consumo. La mia sorpresa invece è stata verificare come la mia banca BNL e così anche Intesa San Paolo avessero già predisposto dei prestiti ad hoc. E quanto costavano? Pochissimo. Costavano, pochissimo. Allora, le faccio un breve calcolo: da 38.000 io avrei dovuto pagare di interessi circa 3.000, più un atto notarile obbligatorio, perché essendo un prestito anomalo veniva trattato come un mutuo, e quindi 5.000 euro in tutto, e passando integralmente il mio credito alla banca. Ecco, che allora si assumeva i rischi. Allora, adesso, io ringrazio Francesco Cittadini, capite che non è tollerabile essere trattati così, non è tollerabile, invece noi tolleriamo tutto, mentre dall'altra parte gli italiani che sono all'estero ci dicono: mi ha risposto in 33 minuti in un caso, nell'Australia addirittura pochi secondi, e qua invece si dice no vabbè scusa 4 anni e mezzo, anzi poi nel frattempo potrei anche derogare di altro, vediamo un po'. Alessio Argiolas, tu cerca di darci le basi ordinamentali di questo furto con scasso, cioè di ricordarci, cercare di persuaderci che lo Stato ha delle buone ragioni per comportarsi così, anche se a me non mi convincerei mai. Alessio, grazie di essere con noi. Ti ringrazio Oscar, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, il problema di fondo è che dobbiamo purtroppo distinguere tra giustizia formale e giustizia sociale. Perché la legge di stabilità 2014, come ha detto l'ascoltatore, intervenendo su ratizzazione, nuovi termini di erogazione della liquidazione di dipendenti pubblici, quindi TFR, TFS, li ha allungati, portandoli dai 6 mesi originari, che dal 97 ci facevano compagnia, fino a 27 mesi base, ma attenzione, arrivando a 51 mesi per il pagamento del saldo, perché c'è un pagamento rateale. Mamma mia. Se si superano i 50.000 euro. Coloro che hanno maturato il diritto di pensione dopo il 31/12/2013, come l'ascoltatore, in caso di prepensionamento rientrano purtroppo alla fattispecie residuale, che ha sempre stata questo termine. I 3 mesi, come giustamente ha detto lui, sono ulteriori, sì, più sono altri ulteriori. Dove non sono dovuti interessi. Ho capito, però... ma cosa può essere la risposta a questo? Ci sarà una maniera per fare una rivoluzione civile? Ci sarà, guarda, senza violare le leggi? Guarda, non è possibile. Ma neanche un monarca assoluto, tagliatore di teste, si comporta così, Alessio. Lo so che il tuo compito è essere pagato da me per dire che ho torto e ha ragione lo Stato, no, però c'è un punto il quale il tuo cliente dice, ma non è possibile, ti paghi almeno lo Stato, Alessio, per dirmi che ha ragione lui. Esatto, però forse c'è una speranza, quindi superando, riallacciandoci a quanto detto da Mario, l'avanzo primario, sì, il trattamento riservato ai cittadini, indicatore della situazione della finanza pubblica, la qualità poi, se Kane resuscita, uso il moltiplicatore per i calci nel fondo schiena, il lavoratore, non avendo alternative, non ha deciso, quindi il prepensionamento statale implica la cessazione del posto di lavoro. Loro dicono, l'ascoltatore ha detto un termine che bisogna stare molto attenti, l'INPS dice dalla cessazione naturale del rapporto di lavoro. Questo termine non l'ho trovato né nella norma. Quindi sarebbe impugnabile. Quindi sarebbe impugnabile. Nella legge, l'ulteriore allungamento dei famosi 2 anni. E allora è impugnabile. Secondo me sì. Allora bisogna costruire una roba di questo genere. Ci torniamo sopra. Perché allora io chiedo a tutti quelli che in ascolto che hanno questo analogo problema, noi tentiamo di munirci di pareri legali per vedere se è impugnabile fare una grande battaglia legale, gandiana ma ferma, cari ascoltatori. Se avete questo guaio del TFR che vi è slittato per anni e anni davanti nel settore pubblico, adesso ci dice attenzione, approfondiamo, è impugnabile. E noi in quel caso siamo qua per darvi una mano contro Sua Altezza Inarrivabile, no, scalabile e piegabile, che in questo caso è lo Stato. Torniamo tra poco. Rubrica Stato Ladro! Rubrica Stato Ladro! Rubrica Stato Ladro! Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ed eccoci qua, coinvolti mio loro malgrado. Voi dovete capire che sono persone serie, i miei colleghi e compari. Quando io faccio queste uscite, è stato loro si girano dall'altra parte, che hanno fidanzate, mogli, amanti, figlie, madri, che dicono: ma come fai con quel buffone terrificante? Amici in cattedra, meno in cattedra. Tutta invidia, caro Oscar, dicono, tutta invidia a quella degli altri, che ci divertiamo noi. Io mi scuso noi. Con voi, cari miei colleghi. Mi scuso, però ripeto: uno Stato che ti dice te la becchi per 4 anni e mezzo è una roba che solo in Italia. Comunque. E ci ha raggiunto l'ultimo compare a cui sporco ovviamente l'onorabilità pubblica, cioè Renato Cifarelli. Come stai, Renato? Io bene, però tu non mi sporchi l'onorabilità, figurati. No, quando sì, mai sì, io ho sì. Pochissima onorabilità di tuo. Da sporcare già di mio. Va bene. Cioè, è una cosa. Allora, lo sai che la testimonianza che hai reso la scorsa settimana, a Reduce del Viaggio in Cina, ha avuto una coda di nostri ascoltatori che hanno detto: ma tu, Cifarelli e Genero, siete così gli apostoli dell'anticomunismo. Non è vero che i social sono oscurati in Cina. Ma insomma, che ci hai detto? No, allora non sono oscurati se tu sei capace di usare le VPN, tutti i trucchi che di solito in Europa usiamo per il black web, tanto per far vedere che magari qualcosa ne capisco, e invece in Cina lo usano semplicemente per collegarsi a Facebook, però sono quindi cose no, caro, loro. Caro ascoltatore, ufficialmente realmente sono oscurati, c'è poco da fare. Dal punto di vista ufficiale, sì, io poi avevo provato a collegarmi da un PC collegato a una rete aziendale, quindi certo, poi come in tutte queste cose ci sono mille modi per riuscire a saltarle. Comunque. Oggi so che parlavate di tante belle cose, io invece oggi sto facendo il business angel, quindi ho sentito parlare di un po' di tecnologia. Dici la tua esperienza con Israele, dove hai clienti, concorrenti, partner tecnologici? Io in Israele ho clienti, non ci sono stato un po' di anni fa, però in un tempo che sicuramente l'Israele di oggi è molto diversa da quella che ho visto io, insomma. Certamente dal punto di vista tecnologico, da ieri parlavamo, per esempio, facevamo vedere le statistiche dei business angel, mi sembra di ricordare che ieri abbiamo detto che in Israele per l'automotive in questo momento, quindi automotive elettrico self-driving company, hanno raccolto qualcosa come 3 miliardi. Colpo di tosse. Cioè, in Italia credo che l'anno scorso di venture capital abbiamo raccolto tipo una roba tipo 80 milioni. Sì, le cifre sono un po' ridicole. Ti confermo la cifra, essendo del settore. Sì, siamo a due ordini, tre ordini di grandezza sotto rispetto agli israeliani, ma ovviamente anche ai francesi e agli inglesi. E fai business angel su che settore, se posso? No, io faccio, quando fai business angel devi fare un portafoglio largo, sai meglio di me, perché poi hai una forte incidenza di aziende che non vanno bene, perché noi facciamo praticamente appena dopo il seed, quindi prima di classe A, che vuol dire la prima raccolta fondi grande per chi non è del settore, e quindi hai un tasso di mortalità abbastanza elevato, però ci sta, insomma. Ma sai, poi alla fine fare il business angel in parte vuol dire anche fare il tutor, che è una cosa, il give back, cioè chi è stato fortunato nella vita, visto che oggi leggevo sui giornali che in Italia ci stiamo avviluppando in una situazione di gente arrabbiata con chi c'è. No, fatta. Ma quelle censis di Carlo Alberto, però. Io e Mario abbiamo tentato di opporre una fiera resistenza a questa cosa, però poi ha travalicato, ha vinto lui con gli ascoltatori, perché ovvio che. Sì. No, ma. Tu col censis come sei messo negli anni, nei decenni, da quando fai l'imprenditore? Perché censis, l'hai trovato un punto di riferimento utile, o talvolta interessante, ma insomma non troppo utile? Col censis? Sì, con le sue analisi. Ecco, hai detto tutto, perfetto. Sei sulla linea Giannino Mario, mentre qui abbiamo chiaramente un grande. Perché Carlo Alberto che rimane affascinato dalla fabulazione semantica del censo. No, ma allora, che Derita sia bravissimo a parlare, siamo tutti d'accordo. Sul fatto poi che. No, ma costruisce delle narrazioni, perché in realtà quello che nessuno ha mai osato dire è che quando Renzi ha detto lo storytelling, è lo storytelling del censis quello che piace a Renzi, cioè sostituire, quando i numeri sono deboli, dopo averli un po' troppo stressati, secondo me, affabulare con grandi formule, per cui i numeri, Oscar, contano i numeri, non censis... le affabulare.